Tutte le volte che sono insieme a te è come un evento rivoluzionario, un scisma d'Oriente, quello di Cartagine. Tutte le volte che ti dico ti amo,